versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo mercoledì 28 di gennaio 2015, sono le 16.35, primi 9-10 secondi, vado subito al punto perché oggi anche ho deciso di fare la trasmissione in realtà per ascoltare la vostra opinione. Mi sono detto che è inutile rincorrere come avverrà giorno per giorno le votazioni, le chiacchiere sul Quirinale, motivo per il quale tutto si è fermato in Italia. Sapete che sembrava tutto fatto, io non ci ho mai creduto, comunque pare che ci siano problemi perché Berlusconi ha detto non deve essere uno del PD, a questo punto Renzi dice no, allora apriamo ad altre ipotesi, i 5 Stelle che incredibilmente volevano Rodotà un anno fa adesso vogliono Prodi e Bersani. Non credo che valga molto la pena procedere sulle ipotesi, sulle illazioni, vedremo, giudicheremo a cose fatte, ognuno di voi poi si farà la sua idea. Invece vi chiedo un'opinione, quindi telefonare 800 24 00 24 e il solito 349 238 6666 per gli sms su un tema più generale, più trasversale, ma che ha una sua importanza, perché in questi mesi abbiamo assistito, lo dicono anche i dati, dati su cui il Viminale però è molto prudente, cioè non vuole darli perché non si alimenti l'impressione di un rischio crescente, però sta di fatto che in questi mesi sembra, perché i dati ufficiali non ci sono ancora, che ci sia una recrudescenza di episodi di violenza politica nel nostro paese. Non stiamo parlando adesso della minaccia al terrorismo, al fondamentalismo, non stiamo parlando di niente che abbia a che fare con Charlie Hebdo, Parigi e le nuove misure che di giorno in giorno si aggiungono. Oggi è stato arrestato un ex militare che si era convertito all'Islam in Italia. No, sto parlando di episodi di violenza politica domestica, italiana, cioè di scontri nelle strade o di agguati, pestaggi, che testimonierebbero una ripresa di un fenomeno che alla fine negli ultimi anni in Italia si era abbassato a livelli, non voglio dire fisiologici, perché è ovvio che ci bisognerebbe augurarsi zero episodi di violenza politica, però tali da non preoccupare. Invece pare che in questi mesi la cosa inizi a riprendere piede. Allora, io vi chiedo che cosa pensate di fronte ad alcuni episodi. C'è stato l'episodio lo scorso fine settimana degli scontri a Cremona. Sapete che gli scontri sono avvenuti perché i centri sociali antagonisti si sono concentrati a Cremona dopo un atto di violenza nei confronti di un appartenente a un centro sociale da parte di militanti politici di parte opposta, e questo appartenente al centro sociale rischia un occhio. Quello che è avvenuto poi alla fine settimana sono stati scontri in città, vetrine rotte, due bancomat distrutti, lacrimogeni e così via. Poi ieri la sentenza a Torino sui Notav, una sentenza, 145 anni di carcere, 47 condanne, 47 condanne e 6 assoluzioni per le violenze avvenute nel 2011 nei confronti del cantiere, di uno dei cantieri per le prospezioni. Allora, questa condanna sembra a molti una condanna troppo troppo forte, troppi anni di galera per così dire. È in corso il giudizio sullo scrittore Henry De Luca, lo scrittore Henry De Luca che viene accusato di istigazione e che si difende dicendo no, io posso al massimo essere condannato o giudicato per istigazione alla lettura, è vero che io difendo il sabotaggio, ha rilasciato un'intervista ieri nella quale diceva il sabotaggio è l'interruzione di una funzione, non una violenza alle persone, e io l'ho fatto, dice, quando ero operaio alla Fiat, e rivendico il diritto di poter scrivere liberamente, secondo l'articolo 21 della Costituzione, anche l'invito a praticarlo, ma questo non mi dovrebbe rendere penalmente responsabile, dice Henry De Luca. Mi ha molto colpito in questa intervista che c'era ieri una frase in cui il giornalista gli chiedeva a un certo punto: sì, ma la violenza in politica ci può stare? E lui rispondeva: sì, certo che sì, da una parte e dall'altra. Naturalmente poi il seguito della sua risposta era: se un poliziotto rompe la testa a un militante politico eccetera, è chiaro che la violenza è legittimata come risposta politica. Non usava il termine legittimata, quindi non voglio fargli dire a R. De Luca cose che non c'erano testualmente, però diceva: è scontato che sia così. Naturalmente questa impostazione significa che basta che qualcuno indichi la causa, l'inizio della catena causale nell'altra parte, ed ecco che si torna a una legittimazione della violenza, o comunque ad accettare la violenza come possibile. Allora, per esempio, altro esempio sulla Stampa di oggi, che dedica naturalmente l'apertura alle prime pagine a commentare la sentenza sulla notav, cioè le 47 condanne con 145 anni di carcere, c'è un'intervista a un antagonista, Rossetto, di Ascatasuna, che è uno, diciamo, dei centri sociali storici di Torino, e Giorgio Rossetto è un militante storico dell'opposizione più dura e pura alla notav in Val di Susa, e alla domanda ai feriti, e lui risponde: cose che succedono, la nostra è una resistenza generosa. E alla domanda: ci sono stati più di 200 feriti tra le forze dell'ordine? La risposta è: può succedere. Ecco, può succedere. A fianco c'è una intervista a uno dei poliziotti, appunto, che furono coinvolti nelle settimane calde e nei fatti per cui sono state combinate queste 47 condanne a Torino. Questo poliziotto è rimasto purtroppo invalidato a una gamba per la pioggia di pietre a cui fu sottoposto, e lui dice: la mia vita è cambiata per sempre, e quello che vorrei dire io è, incontrando gli imputati, se avessi potuto parlare con loro, dice testualmente, si chiama Mario questo poliziotto, ha 32 anni, se avessi potuto parlare con loro gli avrei detto che ci sono molti modi per esprimere dissenso, senza ricorrere alla violenza e all'odio, e senza ridurre un lavoratore come me in questo stato. Allora, le mie domande sono plurime, per così dire, cioè: vi sembra innanzitutto che siano più diffusi questi episodi? Li avvertite intorno a voi nella città in cui vivete, o avete questa impressione? Secondo, questa giustificazione di fatto che c'è in coloro che poi vengono perseguiti dalla giustizia, vi convince in qualche modo? Oppure, terzo, è un errore trascinarli in tribunale perché li si rende martiri, eroi, perseguitati, simboli? È sbagliato applicare i termini di un codice penale che effettivamente fatica, non può calarsi in questa logica per la quale c'è una violenza politica legittima, perché è in risposta alla presunta o vera legittima violenza, anzi illegittima violenza, di qualcun altro che ha cominciato. Quindi da questo punto di vista mi pare che ci siano molte domande. Può essere che voi pensiate invece che sia un non problema, però vi garantisco che in alcune città italiane si inizia a ravvisare un pochino quest'area. Per esempio, ci sono stati atti nei confronti delle sezioni del PD a Roma di irruzioni violente, di danneggiamenti, che nella storia precedente di Roma non c'erano. Aiuterà anche l'atmosfera che è diventata molto calda in città, prima sulla questione, vi ricordate, mesi fa, degli immigrati, poi per le vicende di Mafia Capitale. Però sta di fatto che quando si assiste ad attacchi a militanti o a sezioni politiche, beh, bisogna, con la storia che abbiamo alle spalle, tenere gli occhi aperti, per così dire. Sentiamo la prima telefonata, che è quella di Giuseppe dalla provincia di Modena. Prego, Giuseppe. Salve, buonasera. Buonasera. Volevo sottolineare che, avendo una certa età e rammentando benissimo gli anni 70, mi stupisce che non sia successo qualcosa di peggio in questi ultimi anni, vista la situazione di disastro sociale che stiamo vivendo. Però vorrebbe dire, da una parte, che, perché è verissimo, abbiamo perso una tale quantità di reddito di prodotto che rispetto agli anni 70 altro che. Però dall'altra parte potrebbe essere, Giuseppe, che appunto era anche il segno di una lezione imparata, diciamo così. Lei, certo, che pensa? Certamente, è il segno di una maggiore consapevolezza, di una maggiore coscienza civica. Nello stesso tempo ciò non toglie che sono rimasto stupefatto, in senso positivo. Sia ben intero. Nello stesso tempo credo che i giovani d'oggi siano meno disposti a credere nella politica, a impegnarsi nella politica. Probabilmente anche questa è una lezione in negativo che abbiamo appreso dopo. Che purtroppo gliel'abbiamo trasmessa col fallimento delle generazioni precedenti, temo. Ma lei, Giuseppe, di fronte al fatto che c'è chi dice, per esempio, a Cremona, siccome è stato assalito un militante e perde un occhio, allora è nostro diritto, gli altri centri sociali che convergono su Cremona, sfilare duramente e fare capire i fascisti non passeranno, perché si è tornato al linguaggio come questo. Ecco, lei di fronte a una cosa così, come la pensa? Ma guardi, sinceramente non credo che l'uso della violenza politica sia giustificato in ogni caso, e credo che chi propugna una legittimazione della violenza ne subisce un danno politico, nel senso che è un boomerang che si ritorce contro chi lo fa, chi lo impugna. Ecco, questo speriamo che alcuni ragazzi, a me piacerebbe che qualcuno dai centri sociali ci chiamasse anche, perché è un dibattito aperto, per così dire. Io per esempio ringrazio intanto Giuseppe dalla provincia di Modena, sono un lettore appassionato di tutti i libri, le traduzioni, i romanzi, i racconti di Erri De Luca, che ho anche conosciuto personalmente. Questo aspetto del fatto che c'è un'espressione politica così dura, che è connaturata a chi conosce Erri De Luca, che non ha mai cambiato idea rispetto agli anni 70, che però possa arrivare a contemplare la lotta contro il fascista, per così dire, attraverso la violenza. Ecco, questa è una cosa di fronte alla quale io proprio non riuscirò mai a capirla e a buttarla giù, e a dire la verità anche a metterla insieme con una persona come Erri De Luca, che è di una sensibilità straordinaria, e contemporaneamente c'è però questa sua nettissima cosa per cui si può e si deve fare ogni tanto, ma io non la capisco. La versione di Oscar. Allora, vediamo un po' come la pensate su questo tema della violenza politica che torna un po' in alcune città e che suscita molte polemiche con interviste, prese di posizione e commenti alla sentenza ieri di Torino, 47 condanne e 145 anni di carcere per la parte violenta del fenomeno NoTav. Arrivano moltissimi sms, mi aspettavo molti di meno, ne leggo alcune. Si sono fatti, questa è Alessandra che ci scrive, ci sono fatti chilometri ispirati antifascista nella vita e ancora le farò, ma questa troppo spesso è una guerra tra bande che non c'entra, nel senso che alcuni dei centri sociali usano prepotenza e illegalità soprattutto verso la gente modesta e i lavoratori, basta pensare all'occupazione violenta di case popolari dove non c'è quindi nessuna espressione di fascismo o antifascismo, sono spesso atti di pura violenza e vigliaccheria. Quindi Alessandra non è sospettabile di essere dall'altra parte, dice però ci sono cose che non c'entrano nulla con quello con cui si dice. Molti dicono c'è una violenza che la politica fa agli elettori, beh certo, quando c'è della responsabilità su come va male l'Italia, però qui stiamo parlando di violenza, ragazzi, cioè gente che si accoltella, si apre la testa, perde gli occhi, e stiamo parlando anche di violenza alle cose, perché i sabotaggi nei cantieri alle povere imprese che vogliono lavorare per dare lavoro a Chiomonte sulla NoTav, vuol dire non hanno deciso né loro l'opera né ne sono responsabili. In quel caso, per esempio, prendersela con loro e distruggere le cose e impedire alla gente con la scarsezza di lavoro che c'è di lavorare, anche lì io quello non lo capisco. Altri come Alessandro di Parma invece la pensano diversamente, dicono: caro Oscar, gli antagonisti capiscono solo la lingua del manganello e che manganello sia. Alessandro, così dove andiamo a parare? Però non mi convince molto. Un altro ascoltatore ci dice sui fatti di Cremona: ricordatevi di dire che il primo ferito di Cremona è stato uno di casa Pound con 30 punti di sutura alla testa, forse aveva la testa più dura invece di quello dall'altra parte che rischia di perdere un occhio. Ecco, questo ascoltatore però, vedete, ci rimanda al problema che se la violenza in termini di legittima risposta politica alla violenza dall'altra parte, si risale sempre la catena e così non ci fermeremo mai. Sentiamo Giovanni da Udine come la pensa. Giovanni, prego. Sì, buongiorno. Io praticamente quello che volevo dire è che fermo comunque le parole di condanna alla violenza, ci mancherebbe altro, periodi insomma storici ne sappiamo tutti, però è anche vero, bisogna anche prendere atto del fatto che la giustizia inevitabilmente diventa il problema principale ora come ora per pretendere che non ci sia violenza e non ci sia pace. Ricordo che chi ha ucciso Federico Aldovandi ha preso 3 anni di carcere e continuano a essere in servizio, quindi è giusto, ci mancherebbe altro, non deve essere Spieghi a chi in ascolto per... quando dice Federico Giovanni cosa intende. Parlo di Federico Giovanni. Esatto. Parlo di Stefano Cucchi, sì. Parlo di Carlo Giuliani, parlo sì. di Marcello De Angelis, parlo di Aldo Biasizzo, cioè la lista è lunga. È abbastanza lunga, troppo lunga. Allora la domanda paese, Giovanni che le faccio, visto il giudizio che esprime sui responsabili di tutta questa lunga catena di vittime, e cioè sul fatto che hanno avuto o non pene o pene troppo leggere, per essere chiari, no Giovanni? Ma questo in qualche modo legittima una risposta di violenza secondo lei? Deve legittimarla, ma perché ci deve pensare la giustizia, e la giustizia non può infliggere a una persona che uccide un uomo tre anni. E spacca una vetrina 20. Capisce che no. Il problema capisco che c'è un problema di congruità e proporzionalità della pena rispetto ai fatti compiuti. Non è giustificabile una risposta violenta, ma di conseguenza, insomma, come non è giustificabile che però quella sembra una giustizia di classe o a difesa dello Stato, certo, insomma, per usare termini di un altro tempo, per così dire. Chiudo con questo, mi sembra assurdo che una nazione che nasce dall'antifascismo, dalla resistenza del 2015 abbia sedi di Casa Pound e Lega Nord. Ecco, ma io questo rispetto l'opinione, però il problema è che siccome non... il tempo è andato avanti, uno, due, lo Stato è, non io, perché io su questo, lo Stato non ritiene che lì ci siano gli estremi per un intervento di chiusura, eccetera, eccetera. E allora noi da una parte invochiamo la legalità e dall'altra diciamo c'è Casa Pound, violenza, Giovanni. Credo che anche questo, almeno dal mio punto di vista, stride un po'. E io ho pieno rispetto per chi ha una mentalità dichiaratamente solo antifascista e così via. Io sono contro la violenza da una parte e dall'altra, quindi. Però capisco che questo è una questione storica nel nostro paese. Non vorrei che rifacessimo gli errori della mia generazione. Io sono cresciuto in una città, primi anni 70 a Torino, dove nei licei giravano le pistole e c'erano scontri tutte le settimane. Non credo che la storia si ripeta, i giovani non mi sembrano oggi esposti a questo, però c'è chi continua a pensare che quello sia il modo giusto. Sentiamo Gianluca da Napoli. Gianluca, prego. Sì, salve, buonasera signor Giannino. Buonasera. Complimenti sia per la sua capacità di ascolto che per la capacità di interloquire con l'ospite. Io personalmente penso che è proprio questo che manca la politica, la capacità di interloquire con le parti sociali, di recepirle e farle proprie, di capire il messaggio e di saperlo trasformare in qualcosa di concreto. Oggi la politica è cieca, è becera, ha mille giochetti di palazzo, si è perso il senso alto e morale di quello che dovrebbe essere la politica. Quindi mi pare di capire, Gianluca, che al di là questo non significa che lei sta legittimando la violenza, però certo un retroterra di interlocuzione, dialogo, occuparsi davvero dei problemi concreti e non perdere settimane e mesi alle diatribe interne della politicien, questo aiuterebbe, dice Gianluca. Sentiamo Walter da Verona, prego Walter. C'è? No, è caduta la linea, Walter è caduto. Sentiamo Pierluigi da Carbonia invece, dalla Sardegna. Eccomi qua, buonasera Giannino. Buonasera. Io vorrei capire che cos'è la violenza, perché la violenza è anche imporre a un territorio un'opera che il territorio non vuole, imporre a un territorio un'opera, e lei dovrebbe saperlo, diseconomica per quel territorio e per l'Italia stessa. No, Pierluigi, su questo noi abbiamo fatto trasmissioni, io sono il primo, ho portato gli ospiti sui i dubbi molto forti sulla saturazione di quella linea, però ecco, chiuso questo. Appunto, siccome io so di parlare con una persona che ha analizzato i dati e lei sa molto bene quanto sia diseconomica quell'opera, allora io mi domando qual è la violenza, qual è la protervia, qual è? Quella di uno Stato che impone un'opera sopra la volontà delle persone o quella della gente che legittimamente risponde anche con atti estremi a un'opera? È vero che dentro quel discorso si sono poi insinuati settori che nulla hanno a che fare con Notav, è vero, questo è vero, ma è anche vero che lì ci sono realtà e sono le popolazioni di quei territori, di quelle zone con l'amianto, che hanno dimostrato, dati alla mano, ma dati economici alla mano, quella è un'opera inutile. Pierluigi, sì. Però, ripeto, fare gli attentati nei cantieri, distruggere le macchine di manutenzione, intimidire chi ci lavora, e spaccare la testa ai poliziotti, per Luigi, con la più recisa azione di contrasto dialettico a un'opera di cui non si è convinti per gli impatti sui territoriali, soprattutto dal suo ritorno economico e quello che costa rispetto a quello che rappresenta, secondo me Pierluigi sono due cose diverse. Cioè, Pierluigi sa meglio di me che lì c'erano tanti sindaci a favore. Detto questo, io capisco che ci sarà chi si opporrà fino alla fine, ma il problema esiste un codice penale e non va applicato in questi casi? Questa è la grande domanda di un paese che secondo me stenta su queste cose, innanzitutto a sentire abbastanza la gente, questo sono il primo a dirlo, ma secondo anche a capire che da una parte e dall'altra, e anche dalla polizia, io non sono uno di quelli che dice la polizia ha sempre ragione, è ovvio che per esempio a Piazza Indipendenza a Roma sbagliò la polizia di fronte ai disoccupati che rischiavano il posto di Terni. Comunque continueremo perché c'è un'altra telefonata, continuate con la 24.20 come domani.